Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete in ascolto di 451 Frammenti Sonori che rientra dopo una settimana di pausa anche per le temperature che stanno diventando veramente proibitive qua negli studi ma anche fuori per Bologna e province dintorni, ma forse anche tutta l'Italia, non si sa, ma noi di 451 Frammenti Sonori siamo ritornati ovviamente in diretta, diciamo subito che tendenzialmente dovrebbe essere l'ultima trasmissione, quella di stasera, perché se no moriamo direttamente, ci portiamo dei bagnetti, così delle vasche per bagnarci, perché è improponibile. A meno che tu non porti l'aria condizionata qua. Ok, porterò l'aria condizionata. Metto la macchina direttamente dentro qua, che ha l'aria condizionata, così siamo freschi. Chiaramente 451 Frammenti Sonori vi aveva lasciato due settimane fa con una puntata dedicata alla cinematica, alle musiche dei grandi autori e compositori italiani degli anni 60-70 che hanno fatto, diciamo, da traino in molti casi e sono stati, diciamo, delle parti fondanti e assolutamente qualitativamente alte rispetto alle colonne sonore dei film anni 60-70 che spesso abbiamo citato nella scorsa puntata, dato che era dedicata fondamentalmente all'aspetto più squisitamente filmico, mentre stasera affronteremo Cinematica 2, che è costruita invece più squisitamente sugli autori musicali, sui compositori. Come il movimento appunto della pellicola impressionò i 60 e 70, come abbiamo chiamato appunto Cinematica 1 e anche questa seconda parte, e come diceva appunto Eliseo, più improntata sugli autori che già l'altra volta chiaramente, inevitabilmente sono passati, però questa sera appunto l'attenzione sarà proprio verso di loro e come non iniziare con un grande Piero Piccioni. Diciamo che uno dei più importanti sicuramente, oltre a Morricone, a Umiliani, forse Trovaglioli un pizzichino meno ricordato rispetto a questi ultimi, e Piccioni, oltre ad avere una vita privata abbastanza, insomma, particolare. Beh, travagliata, privata e pubblica poi alla fine, infatti, anche perché è figlio di un ex democristiano, faccende varie legate anche alla cronaca nera, insomma, si trova un po' di biografia su Piccioni, anche piuttosto, insomma, curiosa perlomeno, però Piccioni questa sera non intendiamo assolutamente trattarlo per la vita personale, bensì per le musiche, un Piccioni assolutamente internazionale e un certo Metzger che amiamo perché è cineasta, che come Ras Meyer, forse anche più di lui, intorno alla fine degli anni 60, inventava un mondo erotico anche piuttosto controverso, se non addirittura anticonformista, addirittura le prime immagini gay dentro film che non si volevano, già erotizzati, figuriamoci appunto immagini che riportavano l'omosessualità dentro le pellicole, e molte psichedelie dentro le pellicole di Metzger. Metzger si innamora assolutamente di Piero Piccioni per le sue musicalità tra psichedelia, bossa nova, una sorta di astrazione anche jazzistica, e gli chiede appunto di musicare un piccolo gioiello della sua filmografia, ovvero Camille 2000, film di culto, e Piccioni lo fa veramente in maniera egregia. E faremo un po' un lavoro di blocchi questa sera. Sì, anche perché sennò non ce la facciamo fisicamente con questo caldo. Non dirlo troppo spesso, veramente qua ci viene il collasso, non lo chiamare. Cosa dobbiamo dire? Forza Olanda o forza Spagna? Tu sei l'uomo della Spagna, gli ascoltatori devono saperlo perché è fondamentale, però l'hai tirata fuori tu, io cercavo di far finta di farmi, abbiamo visto la partita, purtroppo abbiamo visto la partita e purtroppo volevano far vincere la Spagna, tu sei l'uomo della Spagna, così lo sappiano tutti. Camille 2000, io non so, ha giocato meglio. No. Thank you. Beh, è un Piccioni notevolissimo, e ragionavamo con Eliseo, appunto, microfoni spenti, sul fatto che magari tante volte non riescono a rendere sul serio omaggio le compilazioni varie e su Piccioni, su Miliani, Rizzo Ortolani, vari insomma che passeranno questa sera, su Morricone poi non ne parliamo, un po' per il fatto che spesso vengono sviliti o a ruolo semplicemente lounge, anche con pezzi molto belli, però insomma non hanno fatto soltanto quello, oppure più sul versante beat o sul versante pop, così nazional popolare anche per tanti versi, se consideriamo che ad esempio Piccioni, la compilation più famosa è quella dedicata ad Alberto Sordi, sì, con anche pezzi notevoli, però insomma non ci raccontano di sicuro una Piccioni che sta dentro Camille 2000 e che sta dentro altri film che adesso andremo a trovare, questo Piccioni appunto più gezzato, più astrattizzato e più alla ricerca appunto di una sonorità originale anche dentro appunto le colonne sonore meravigliose già di quegli anni. Andiamo a sentire altre cose. Andiamo a sentire altre cose del nostro Piero, addirittura Piero Piccioni, sempre. Non è nostro, sì. Bah, sì, parte. Sì, mica è spagnolo. Insomma, purtroppo l'uomo della Spagna. L'uomo della Spagna. Va bene. Sì, di marzapane. Sì, di marzapane, di farti regalare un piccolo mino di Spagna. Allora, i film che andremo adesso a scovare, ma fondamentalmente per noi non è tanto appunto stasera l'attenzione riferita all'aspetto filmico, ma all'aspetto strettamente compositivo e musicale. Però i brani che andremo a ascoltare adesso sono tratti da tre film. Il primo è Scacco alla regina, 1969. Il secondo è Il medico della mutua, famosissimo, del 1969, con l'Albertone nazionale, e il terzo è Puppet on a Chain, 1971. A chiudere poi, collegato, manderemo anche da Psychedelic Italia il film. Cosa c'è scritto qua? Non riesci a leggere più la mia scrittura. Ma tu scrivi Gerocris, scrivi in spagnolo, no, tu non riesco a interpretare. Tu scrivi in olandese. Il dio sotto la pelle. Il dio sotto la pelle, sì, bene. Insomma, Piero Piccioni. Thank you. Thank you. speriamo di aver omaggiato degnamente una grande della canzone jazzata come Piero Miliani, non soltanto di quella, delle psichedelie, delle queste melodie incredibili che prendono veramente, potrebbero anche prendere le pietre, probabilmente sono talmente calde che smuovono qualsiasi animo probabilmente. E con Piero Piccioni si va a trovare anche, appunto, come dicevamo la scorsa volta, una cinematografia minore, ad esempio questo Dio sotto la pelle, oltre ad avere queste meravigliose musiche, anche quelle meravigliose immagini di Folco Quilici, un documentarista decisamente notevole, quasi a livello di visività antropologica, e appunto Piccioni riesce a dare un in più a quelle immagini, ma se anche pensiamo all'immagine appunto di Albertone, Alberto Sordi, e l'associazione quasi scontata che viene fatta con Piero Piccioni, non soltanto foto che si rincorrono su internet tra i due, ma se pensiamo La storia di un italiano, il famosissimo pezzo che non metteremo questa sera perché avete capito qual è. Ma quello insomma è super conosciuto. Sembra che sia la stessa cosa con Alberto Sordi, e quindi questa grande potenza insomma di Piccioni proprio a quasi far diventare il suono immagine un tutt'uno. Cosa che tra l'altro associerà un altro grande Piero, un omonimo, che tante volte sono stati accostati quasi coetanei i due, con probabilmente un tocco più così lieve per quanto riguarda Piccioni, un tocco invece un po' più spregiudicato per quanto riguarda l'altro Piero, ovvero Piero Miliani, che comunque tutte e due, in particolar modo, e li dobbiamo ringraziare veramente tanto per quello, nel dopoguerra portarono il jazz in Italia, ed è per loro due, anche per Trovajoli e altri, che si cimentarono in punto, appunto, con quelle musiche che prima non potevano evidentemente arrivare al nostro paese, che abbiamo avuto insomma anche una scuola jazzistica di un certo livello. Eh sì, direi proprio di sì, e insieme al grande Piero Piccioni, un altro grande rappresentante di un jazz che attraverso queste musiche delle colonne sonore portate avanti da questi autori è riuscito appunto a incidere sull'aspetto jazzistico in Italia, a diffonderlo, a creare appunto soprattutto una caratterizzazione connessa specificamente al jazz italiano, diciamo anche alle melodie, a certe costruzioni musicali tipiche della nostra scuola italiana. In questo, insieme a Piero Piccioni, c'era un altro Piero Miliani, che poi purtroppo anche nel finale della propria carriera ha dovuto arrabbattarsi musicalmente per lavoro, facendo un po' di tutto. Dunque sì, diciamo anche con delle cadute di stile abbastanza grosse, che Piccioni è stato salvato dal fatto di Alberto Sordi, Umiliani invece si è dovuto accontentare veramente di filmacci di quart'ordine, veramente B-movie, addirittura finito a dover musicare delle cose addirittura dei primi porno italiani fine anni 70, ma anche ovviamente è stato un grande musicista e compositore di film importanti, perché insomma ricordiamo alcuni film decisivi nella storia anche della cinematografia italiana, a partire dai Soliti Ignoti, che è stato un film fondamentale del 58, Urlatori alla sbarra, Il Vigile, anche famoso film del 60, ricordiamo anche Omicron, che andremo adesso proprio ad ascoltare un pezzo tratto da questo film di fantascienza assolutamente interessante sul piano soprattutto politico, ovviamente siamo nel 63 con tutta una serie di chiari riferimenti all'attualità attraverso la fantascienza, era una tecnica utilizzata, e tanti altri film importanti. Adesso andremo a sentire, diciamo, un blocco prima di far partire il GR di Radio Popolare Network, dunque non rientreremo in diretta, ripartiremo poi dopo il GR di Radio Popolare intorno a mezzanotte e 50. Intanto godiamoci da Piero Umiliano, e prima di tutto Omicron 1963, poi andremo ad ascoltare un brano di uno dei film, anche questo questi tra i più famosi, La ragazza dalla pelle di luna del 1970, poi Le isole dell'amore 1970, La ragazza fuori strada 1971 e poi chiuderemo con Un uomo, un cavallo, una pistola, una versione diciamo spaghetti western anche di Umiliani del 1967. We'll be right back.